Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, negli ultimi tempi si è sempre più parlato di agricoltura, si è parlato di ritorno alla terra, si è parlato dei problemi dell'agricoltura e di prodotti della terra. Ebbene, tra questi argomenti ce n'è uno in particolare che mi ha abbastanza incuriosito ed era la storia di un pastore molto giovane, di un ragazzo che a 16 anni ha deciso di fare il pastore nonostante la famiglia non abbia niente a che fare con questo mondo. Ebbene, allora sulle tracce di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che poi sentiremo, con cui parleremo, ho cercato così di fare un'indagine, andare a scoprire delle storie, andare a verificare se veramente ci sono molti, molti giovani che preferiscono tornare alla terra, all'agricoltura, piuttosto che fare altre professioni, o addirittura alcuni lasciano altre professioni per tornare alla terra. Bene, io voglio cominciare questo viaggio, questo bellissimo viaggio, con un fotografo, con Cristian Cristoforetti, che ha fatto una mostra e un libro su Pastori nelle Alpi, storia e testimonianze. Buongiorno, buongiorno Cristian. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Senta, sì. In questo reportage che lei di immagini soprattutto ha fatto, volevo chiedere, ma ci sono molte storie di persone così che hanno lasciato alcune attività per dedicarsi appunto alla transumanza, addirittura giovani che hanno scelto la transumanza? Ma sì, noi abbiamo realizzato un libro edito congiunti e una mostra fotografica nel 2007, come le ricordava, e io personalmente ho seguito per un anno i pastori transumanti, dalle Alpi fino alle pianure, fino al mare e poi di nuovo ritornando fino in montagna. Ne sono uscite 12 bellissime storie e quasi tutte le storie parlano di giovani o di padri e di figli che continuano questa tradizione. Quindi direi che questo ritorno alla campagna, all'agricoltura e alla vita in qualche modo nomade anche tra i giovani contemporanei esiste. Ecco, lei che ha sicuramente approfondito con questi giovani, un mestiere molto duro, quindi che cosa li ha portati a scegliere questo? Cioè la vita nomade, diciamo l'attrazione per vivere appunto all'aria aperta piuttosto che andare in un ufficio? Ma molti di loro hanno provato a fare altri mestieri, però la grande passione, molto spesso dettata dal fatto che i genitori, i padri o i nonni erano già pastori, e quindi ha dettato la necessità, come se fosse un ritorno alle origini, e quindi sicuramente la forte passione, ecco, la forte passione per le bestie e per il territorio. Bene, grazie allora a Cristian Cristoforetti di questa sua testimonianza, ma ora parleremo molto di pastori, ma andiamo a vedere anche altri settori, diciamo altre persone che hanno deciso di cambiare e dedicarsi in qualche maniera a delle attività agricole. Buongiorno Maria Vittoria Resta. Buongiorno. Bene, Maria Vittoria Resta assieme a una collega, Angelica Martinoni, che mi sembra il vostro settore precedente fosse nel campo della moda. Esattamente. E ora cosa fate? Ora lavoriamo un orto. Abbiamo un nostro orto e niente, lavoriamo la terra. Quindi lavorate la terra. Come mai questa decisione? Ma forse per ritornare un po' alle origini e fare qualcosa di concreto con soddisfazione abbastanza immediata, che poi è un po' neanche vero perché comunque ci sono dei tempi abbastanza lunghi, però proprio il lavorare concretamente con qualcosa di vero. Ah, ecco, quindi la moda è qualcosa di effimero, insomma. Diciamoci la verità. No, secondo me non è tanto di effimero, perché comunque per me è stata un'esperienza molto forte, molto bella, da cui ho imparato veramente tanto, ho avuto dei grandi insegnanti, però è qualcosa che poi va un po' a finire, è qualcosa, non so, non mi dava quella soddisfazione che la terra riesce a darmi, soprattutto anche a livello di emozione. Ecco, quindi voi cosa fate? Cosa consiste esattamente oggi il vostro lavoro? Il nostro lavoro è fare un programma di quelle che saranno le coltivazioni e poi niente, iniziare a preparare il terreno, seminare, irrigare, togliere le erbacce a mano e raccogliere i nostri prodotti per poi portarli direttamente a casa dalle signore. Ecco, dal punto di vista economico è gratificante questo lavoro? Ora come ora, forse perché siamo all'inizio, no, non è certo la parte più gratificante. È molto più gratificante la soddisfazione delle signore quando mangiano i nostri prodotti. Ecco, c'è domanda di prodotti appunto arrivati direttamente, diciamo, dal produttore al consumatore in questo periodo? Dunque, in questo periodo, almeno io, poi abbiamo iniziato da poco, però c'è stato una crescita notevole, e quello di cui ci domandano spesso è proprio se coltiviamo direttamente noi o se c'è o sono altri produttori. Quello è molto importante. Ho capito. Quindi cosa producete esattamente? Quali sono i vostri prodotti? Noi tutti ortaggi di stagione, proprio è un orto molto tradizionale con cose non strane, ma è proprio tutto quello che è naturale del luogo, e a volte vengono poi, invece proviamo a seminare delle specie un po' diverse, ma non so, il peperoncino che ci regala il contadino della Puglia o della Toscana, e a seconda di chi andiamo un po' a incontrare, però tendenzialmente sono tutti prodotti molto, soprattutto stagionali, ma del luogo. Bene, grazie a Maria Vittoria Resta. Ora abbiamo con noi una scrittrice di libri sulla pastorizia e l'alpeggio, abbiamo Marzia Verona, che ha scritto un libro, Storie di Pascolo Vagante, appunto sulla pastorizia nomade. Volevo chiedere, c'è molta attrazione in questo momento per questo mestiere? Ma sì, l'importante è che non sia solo una moda, cioè se ne parla tanto, ma purtroppo è un mondo che ha bisogno di tanta attenzione, perché altrimenti rischia di scomparire. Non bisogna ricordarsi dei pastori solo a Natale, quando bisogna metterli nel presepe, dico sempre io. E questo è vero, ma ci sono molti giovani che sono attratti da questo mestiere. Per fortuna sì, ci sono ancora dei giovani, ovviamente ci sono gente di tutte le età, però ci sono ancora anche dei giovani che scelgono di continuare questa attività, o anche che iniziano a farla pur non avendo la tradizione del passato. Però è un mondo difficile, e quindi c'è da stimare veramente chi sceglie di fare questa vita, che non ti dà nessuna libertà, ma ti dà tante soddisfazioni insieme alle tue bestie. E secondo lei qual è la molla che porta chi non ha questa tradizione in famiglia a fare questo mestiere? Ma comunque devi conoscere quel mondo, cioè non è che parti così da niente, quel mondo lo vedi prima, magari sei in una zona dove c'è tradizione di pastorizia e vieni attratto da questo senso di libertà che in un certo senso la pastorizia ti dà, perché il pascolo vagante vuol dire essere tutti i giorni al pascolo con i tuoi animali, spostarti continuamente, cercare continuamente dei pascoli per il tuo gregge, ed è un qualcosa che sicuramente ha un senso romantico così a pensarlo. Poi scopri che la realtà magari è qualcosa di diverso. Non è sicuramente un mestiere che possono fare tutti, ci va dietro un grande spirito di sacrificio. Bene, grazie a Marzia Verona, autrice di Storie di Pascolo Vagante. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di agricoltura, di ritorno possibile all'agricoltura, di giovani che addirittura lasciano un lavoro per dedicarsi agli orti, oppure giovani che addirittura decidono di fare i pastori. Ebbene, diciamo che tutta questa trasmissione è stata mossa da una notizia, da un personaggio, da un giovanissimo personaggio che è Andrea Masseo, che abbiamo in linea. Buongiorno Masseo. Buongiorno. Buongiorno, è un giovane di 18 anni, è un pastore biellese, il quale a 16 anni ha lasciato la scuola e si è messo a fare il pastore. I genitori fanno tutt'altro mestiere nella vita, quindi sicuramente non è stata la passione di famiglia. Andrea, ma cosa ti ha spinto a fare il pastore? Mi ha spinto la passione che ho adesso, cioè delle pecore, di iniziare ad andare dietro il gregge. Un giorno ho trovato un gregge, da lì Mi sono innamorato delle pecore e da adesso faccio questo lavoro qui. Senti Andrea, tu hai 2 anni che fai pastore praticamente. Sì, 2 anni, prima avevo già andavo a scuola, ma comunque ho sempre avuto un po' di pecore, una quarantina di pecore. Ecco, ma i tuoi genitori come hanno preso questa decisione? Se non ero tuo padre medico, tua madre è insegnante. Sì, quindi... ma all'inizio l'hanno preso un po', non tanto, si può dire, non, erano rimasti, sono rimasti un po' lì. Allibiti, diciamo così. Fiato aperto. E poi hanno iniziato a capire, adesso... sono anche contenti perché è una vita difficile, si è sempre in giro, non si è mai a casa, però alla fine ci sentiamo e ormai sanno come funziona, ecco. Dimmi la verità, ma è questa vita nomade che ti piace probabilmente? Sì, girare sempre in giro, un giorno qua, 3 o 4 giorni lì, non si è mai staziale, si è sempre in giro, ecco, al pascolo. Ecco, rimani in linea con noi perché ora abbiamo il professor Michele Corti, che è poi la persona che indirettamente mi ha segnalato questa storia bellissima, e di lì sono andato così ad approfondire. Buongiorno a Michele Corti, buongiorno professore. Buongiorno. Docente di sistemi zootecnici e pastorali montani, quindi ecco, questo dice già tutto. Michele, ma cosa sta succedendo? Perché ci sono casi che si stanno susseguendo su questo ritorno alla montagna, questo ritorno all'agricoltura di montagna. E diciamo di pochi, oppure questi pochi fanno notizia? Beh, diciamo che è un'avanguardia di un esercito che speriamo abbia file sempre più numerose. Io ritengo questo fenomeno fisiologico, da ormai da parecchi anni, anche grazie a personaggi come te, si parla molto di quello che c'è dietro l'alimentazione, di tutti i valori legati alla salute, legati alla conservazione del territorio, legati al mantenimento di identità. E quindi io credo che l'onda lunga di questo ritorno di interesse per l'alimentazione, per il cibo, per l'origine del cibo, per le condizioni in cui nasce il cibo, alla fine ha portato anche a tornare a un interesse per le modalità agricole vere e proprie. E quindi vediamo anche movimenti come quello dei gas, movimento dei consumatori che non vogliono più essere passivi, ma che intraprendono dei percorsi di relazione con i produttori, formule anche innovative, gli abbonamenti spese, insomma qualcosa che poi li porta anche a mettere il naso, ma nel senso buono, dentro il processo agricolo, dentro l'azienda. Io credo che poi alla fine la generazione dei figli di questi, dei papà, delle mamme che stanno ritornando a comprare i prodotti dai contadini, magari questi bambini che oggi sono piccoli, tra qualche anno matureranno una vocazione per essere loro stessi produttori agricoli. Ecco, rimani con noi perché abbiamo Giuliano Murada dell'azienda agricola Stella Orobica in provincia di Sondrio. Ecco, d'estate questa azienda fa pascolo in alpeggio e addirittura ci sono volontari e addirittura stage di 2 o 3 settimane. Murada, ma arrivano giovani a fare questi stage? Sì, buongiorno. Per nostra fortuna, per la nostra categoria, sì, c'è ancora voglia da parte di giovani e anche meno giovani, devo dire, di riscoperta o di almeno provare una volta nella vita a fare la nostra vita, che appunto è quella del pastore, soprattutto in alta montagna nel periodo estivo. Ecco, voi fate solo i pastori o raccogliete anche il latte e poi ce l'ho trasferito, oppure solamente i pastori? Ma la nostra è un'azienda di montagna vera, nel senso che portiamo avanti quello che è la tradizione di questa provincia da oramai migliaia d'anni, nel senso che d'inverno le vacche stanno in fondovalle ed estate vanno in alpeggio, dove fanno pascolo e viene fatto formaggio d'alpeggio. Solo che negli ultimi 15 anni si faceva fatica a trovare manodopera. Ora, con lo strumento anche di internet e quindi un minimo riuscire a stare a passo coi tempi, si riesce a mettere in contatto le diverse persone che magari sono interessate al nostro mondo, ma che prima, anche per via comunicativa, era molto più difficile Ecco, arrivati. Lei ha parlato di formaggio di Malga, quindi mi vuole dire così una curiosità che credo che i nostri radioascoltatori ascoltino molto volentieri. Il latte prodotto in alpeggio, poi lo chiederò anche a Corti, quindi la produzione del formaggio si differenzia dal latte prodotto a valle e quindi sul formaggio prodotto a valle? Decisamente sì, anzi c'è una differenza abissale. Noi d'inverno le nostre vacche mangiano solo fieno e un pelino di concentrati, d'estate mangiano solo erba e un minimo di concentrato, perché purtroppo le mucche non sono più quelle di una volta e hanno bisogno, tra virgolette, di un aiuto per poter riuscire a stare in piedi. Detto questo, l'erba che loro mangiano nel periodo estivo, in sostanza dai 1500 in su, ha delle proprietà a livello nutrizionale, a livello gustativo, che solo a quelle quote si possono trovare. Inoltre c'è proprio la differenza tra alpeggio e alpeggio, perché ogni alpeggio, ogni posto dove porti a pascolare gli animali ha una differenza, ci sono delle differenze floreali e questo viene poi portato anche nel formaggio stesso. Certo. Volevo ritornare da Andrea Masseo, volevo chiedere, Masseo, la tua passione è solo sulle pecore o è anche sul formaggio? La mia passione è sulle pecore, capre, asini, io produco soltanto agnelli, soltanto le pecore fanno agnelli, fattrici e vendo agnelli. E quindi non vendi latte tu, quindi? No. Sì, d'estate quando vado su in montagna ho delle capre, faccio dei tomini. Ecco, che razza sono i tuoi agnelli? Biellese. Bene, ritorno un secondo al professor Corti. Michele, ma la transumanza sta scomparendo o sta mantenendo le posizioni? No, sta mantenendo le posizioni, anzi, guarda, un mese fa abbiamo fatto un convegno vicino a Brescia, a Rovato, come associazione pastori lombardi, poi c'erano anche amici del Piemonte, del Veneto e c'era anche un rappresentante della regione Lombardia e si è avviato un confronto interessante con le istituzioni per fare in modo che il ruolo di questa forma di pastorizia esca un po' da quello che è la sua storica marginalità, ma un termine improprio, e venga proprio riconosciuto anche nella funzione di manutenzione di quelle che sono le aste fluviali, certi terreni un po' a metà tra l'urbanizzato e l'agricolo, e poi anche per il mantenimento di tutti quei praterie di montagna, pascoli, che l'Unione Europea considera habitat prioritari, ma che rischiano di sparire invasi dai cespugli e dai boschi. Quindi diciamo che proprio negli ultimi mesi da parte sia della regione Piemonte, devo dire, che della regione Lombardia, ma credo che anche in Veneto ci sia la stessa consapevolezza, le istituzioni si accorgono che questo modo di produzione, tra virgolette, arcaico, che però si dimostra di secolo in secolo in grado di cogliere le novità che ci sono nella società, questo modo di produzione arcaico per alcuni aspetti è modernissimo, perché è multifunzionale, perché fa prodotti particolari, perché fa manutenzione di ambiti montani ma anche collinari, di pianura, che sarebbe difficile gestire sotto forma di manutenzione forestale o di altre forme, e quindi c'è questa soddisfazione di, dopo un periodo un po' di grosse difficoltà nel quale anche l'istituzione dei parchi non ha aiutato la transumanza, oggi si trova forse una forma di ritorno, insomma, di equilibrio tra un certo ambientalismo e le esigenze del pastoralismo in prospettiva di un qualcosa di nuovo. Grazie a Michele, grazie a Giuliano Murada e a Andrea Masseo, buon lavoro a Masseo e a Murada e a presto. Il gastronauta. Ebbene, stiamo parlando del ritorno in agricoltura. C'è questo ritorno, soprattutto molti giovani tornano all'agricoltura e tanti cambiano mestiere per tornare alla terra. Bene, un interrogativo che stiamo cercando così a cui dare risposta. Abbiamo visto che ci sono molti giovani che scelgono delle professioni completamente diverse da quelle dei loro genitori. Chi addirittura figlio di un medico e di un insegnante decide a 16 anni di fare il pastore, ma ci sono tante altre belle storie che abbiamo sentito e altre che ne sentiremo. E cominciamo ancora di nuovo da una pastora, se si può chiamare al femminile, pastora, da Cheyenne Dapra. Buongiorno Cheyenne. Buongiorno. Buongiorno, lei è in Val di Rabbi, se non erro, sì. Vero? Ecco, mi dice, come ha iniziato a fare questa attività? Ma ho iniziato in Germania, che dove esistono le scuole di pastori, dopo aver fatto la maturità, cercando qualcosa di da fare, per caso più che altro, ho trovato la scuola di pastori e ho detto perché no. Addirittura in Germania esiste una scuola di pastori? Sì, ce ne sono tre, di quelle che conosco sono tre in Germania. Dopo... Ma lei cos'è, ha interrotto degli studi, faceva un'altra cosa oppure proprio ha deciso? No, io ho fatto la maturità con la scuola steineriana e dopo invece di andare all'università ho frequentato la scuola di pastori. Senta, la scuola steineriana gli ha dato qualcosa, gli ha dato una spinta verso questo mestiere, verso l'agricoltura, verso la terra, oppure è stata proprio una sua, così come posso dire, una sua voglia di tornare alla terra, alla vita nomade? Ma credo che i fattori siano stati vari, senz'altro la scuola steineriana penso dia una mano a trovare un po' quello che si desidera fare nella propria vita. Dopo comunque sono cresciuta sempre, diciamo, un po' lontana dal paese, con animali, perciò già la vita con la natura, con gli animali, non mi era proprio strana del tutto. Ecco, cosa fai? I suoi genitori non avevano niente a che fare con questo mestiere? No, avevamo un po', 10 pecore, un po' di capre, un po' di galline, così, però mia madre è terapeuta d'arte, mio padre è artista. Ah, beh, perciò... quindi siamo lontani come sì, nel caso sì, di Andrea, sì. Quindi lontanissimi. Senta, ma lei quante pecore ha? Al momento un'ottantina. E lei cioè fa agnelli oppure latte? Agnelli. Che... Per il latte ci vorrebbe una struttura con un caseificio e sono tutti costi abbastanza elevati. Fino adesso non ho avuto il coraggio. Che razza di pecore alleva? Beh, vengono nominate pecore da paesaggio. Una razza è tedesca, si chiamano Heidschnucken. Un'altra razza invece è svizzera, si chiama Vallese dal naso nero. Ah beh, quindi due tipi di razze. Qual è che rende di più dal punto di vista? No, è uguale, perché non sono comunque pecore da carne, cioè gli agnelli sono abbastanza leggeri, la capacità o diciamo, la specialità di queste pecore qua è di brucare, di accontentarsi di pascoli anche molto poveri. Lei dice... Persona che posso dire va di più uno o l'altro. Si dice, le vallesi hanno una carne molto più chiara, perciò magari piacciono un po' di più. Ma scusi una cosa, ma ai macellai piacciono queste carni? Sì, perché comunque è agnello di montagna, sono comunque bestie che dal momento, cioè dalla loro nascita fino al momento della macellazione, mangiano soltanto erba dei prati montani, perciò. Quindi è contenta di questo mestiere? Sì. Lei è tranquilla, bene. Beata lei che fa un mestiere che le piace, perché ci sono molti che sicuramente scappano da altri mestieri per andare alla terra. Lei mi sembra invece che abbia raggiunto così la sua tranquillità, la sua serenità da questo punto di vista. Ma cosa ne pensa di questo ritorno dei giovani alla terra? Lo trovo un fatto senz'altro positivo. Dopo vedo tanti che ritornano alla terra, che l'affrontano in modo un po', diciamo, un po' troppo da sognatori. Okay, e dopo sì, magari la vita con la terra non è una vita facile, non si fa presto a dire mi faccio l'orto, mi coltivo le mie cose, mi tengo due pecore, due capre, così ho anche la carne, ma dopo è un lavoro che impegna comunque tutti i giorni. Per tenerle bene bisogna anche saperle curare, conoscerle, non è Non è abbastanza avere una stalla, dargli il fieno, dire boh, speriamo che vada tutto bene, insomma. Bene, io la ringrazio, Cheyenne, spero che presto si crei questa struttura che mi sembra di capire lei vorrebbe per il latte. Sì, molto. Buon lavoro, le auguro buon Grazie. Lavoro. Bene, ma sentiamo invece un personaggio, anzi una coppia, che ha mollato un lavoro proprio per tornare alla terra. Buongiorno a Corrado Cozzolino. Dunque, Corrado Cozzolino è, diciamo, un'azienda agricola, se dico se è giusto, nella Valle del Vanoi, nel Trentino orientale. Mi racconta un po' così cos'è successo nella vita sua e di sua moglie, cosa avete deciso di fare a un certo punto? Sì, appunto, no, non è corretto aver mollato un lavoro, perché in realtà noi abbiamo messo su questa attività appena finiti gli studi, cioè dopo aver finito entrambi un corso di studi di laurea. E invece di in realtà attivarci un vero e proprio lavoro, avevamo fatto solo delle collaborazioni, abbiamo deciso piuttosto di continuare verso quella carriera che era quella che diciamo più consona ai nostri studi, di tentare ad allevare capre e api e vedere se riuscivamo a mettere su un'azienda. Adesso dopo 12-13 anni siamo riusciti ad avere la nostra struttura con il nostro caseificio e tutte le nostre attrezzi e strutture per poter diciamo gestire questa azienda. Senta, in che cosa eravate laureati lei e sua moglie? Elisa, mia moglie, si è laureata in scienze forestali, io in chimica. Quindi lei in chimica insomma è andato a fare un mestiere che non era proprio quello, ma le è servita la laurea in chimica? Ma sì, alla fine sì, perché in ogni caso qualsiasi laurea diciamo non è che oggigiorno purtroppo l'istituto scolastico non è che ti dia veramente un lavoro in mano neanche dopo aver finito il tuo corso di laurea. In realtà noi siamo ancora che con un metodo in mano e quindi in realtà il metodo diciamo scolastico, anche quello universitario, ti serve in ogni caso per affrontare i problemi anche di qualsiasi altro mestiere e quindi diciamo che l'università ci ha dato delle conoscenze e dei metodi che poi noi abbiamo applicato anche nell'attività, anche in un'attività molto manuale come quella dell'agricoltura e dell'allevamento. Voi producete sia formaggi, yogurt, nonché api, cioè scusi, nonché miele. Sì, volevo chiedere, ma diciamo a chi vendete? Direttamente al consumatore oppure avete altre strade? Sì, allora no. All'inizio la vendita diretta al consumatore era ovviamente difficile perché è un'azienda giovane e quindi abbiamo dovuto rivolgerci a negozi, soprattutto della catena del biologico, essendo questa un'azienda biologica. Poi con l'andare avanti degli anni ovviamente il tuo diciamo pacchetto clienti diciamo aumenta e quindi piano piano stiamo abbandonando i negozi, adesso ne abbiamo pochi che serviamo e diciamo che riusciamo quasi completamente a vendere direttamente il prodotto. Poi c'è stato un periodo in cui abbiamo anche fatto parecchi fiere e mercati, però adesso sono un po' squalificate le fiere e mercati perché ce ne sono troppe e quindi in realtà non c'è più quella vendita, quel guadagno che c'era magari 7-8 anni fa. Quali sono i formaggi che voi producete? Noi facciamo formaggi caprini, due qualità, uno è un formaggio fresco, uno spalmabile che si chiama il Tomino e invece uno è un formaggio un po' più stagionato che ha un mese di stagionatura e che è più adatto anche diciamo a essere conservato. Ecco, voi avete un allevamento di Mazzarol, vuole spiegare ai nostri radioascoltatori cosa sono? Cos'è il Mazzarol? Sì, sì. Ma sì, diciamo che quando abbiamo creato il nome di questa azienda ci siamo rifatti a una leggenda che c'è qui nel Primiero, che è nella valle, il Primiero e il Vanoi, che sono le due valli limitrofe dove noi appunto ci siamo insediati. Il Mazzarolo è una figura leggendaria che al tempo, tantissimi anni fa, pare abbia insegnato ai primierotti come fare il formaggio. Lui l'ha fatto in maniera molto particolare, non è stato lui a insegnare come fare il formaggio, in realtà lui rapiva le persone e le faceva lavorare in questa sua azienda. Una di queste persone, la Margherita, è riuscita a scappare da questo diciamo villaggio di fantasia del Mazzarol ed è ritornata in Primiero e ha insegnato ai primierotti come si faceva il formaggio, cosa che invece i primierotti sino al tempo non sapevano fare e quindi bevevano solo il latte ma non sapevano come si faceva il formaggio e il burro. A noi ci piace parecchio la leggenda e ci piace anche il fatto che diciamo ci sia sempre qualcosa da imparare o da insegnare e quindi l'abbiamo usato come diciamo come nome per l'azienda. Bene, grazie a Corrado Cozzolino appunto in Trentino. Stiamo sentendo un po' tutta Italia diciamo di queste nuove professioni o di persone così che hanno scelto l'agricoltura. il gastronauta. Continuiamo con queste bellissime storie di personaggi che hanno lasciato un lavoro oppure hanno scelto molto giovani di dedicarsi all'agricoltura e quindi di tornare alla terra nonostante la tradizione familiare fosse tutt'altro. Ebbene, ora parleremo di miele, parleremo di un miele particolare con Alessandra Fellin. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, buongiorno dalla Maremma. Buongiorno, Fior di Maremma si chiama l'azienda di Alessandra. Bene, Alessandra, lei ha cambiato lavoro, da educatrice sociale si è messa a fare l'apicoltrice. Come mai questo cambio? Ma diciamo che la prima risposta che mi viene in mente è che l'ho fatto per amore, per seguire il mio marito, che anche lui è laureato in storia, aveva un'altra professione, però ci siamo appassionati tutti e due della vita all'aria aperta, cercavamo un lavoro che ci permettesse di uscire alla città. Quindi lui prima di me è venuto qui in Maremma e io l'ho seguito dopo qualche mese, ho lasciato il mio lavoro, abbiamo preso un piccolo pezzo di terra in questo angolo di Maremma in provincia di Grosseto a Scanzano, era abbandonato da 30 anni, l'abbiamo cercato di ripulire e abbiamo iniziato con l'allevamento di api. Quindi siete in due che avete lasciato l'attività? Sì, sì, sì, siamo tutti e due, poi appunto prima ha iniziato mio marito, poi l'ho seguito io e adesso siamo tutti e due felici di questa scelta fatta e abbiamo anche in più due bambini che sono nati nel frattempo e spero ci seguiranno anche loro nel nostro percorso. Quali mieli producete voi? Beh, noi produciamo mieli a seconda di dove portiamo le api, ogni anno cambiano, abbiamo qualche miele che rimane fisso, però normalmente anche a seconda della stagionalità, se piove o meno, i mieli sono diversi. Produciamo miele di acacia, di castagno, di erica, di marruca, di schiucciolo, di girasole e il millefiori, che è il miele più rappresentativo di questa terra, perché i fiori che ci sono qui in Maremma sono diversi dai fiori che si possono trovare in altre regioni d'Italia. Bene, bene, quindi è felice? Sì, sì, siamo felici della scelta fatta, perché viviamo in un bel posto e passiamo gran parte delle nostre giornate all'aria aperta, e anche se nessuna delle nostre famiglie aveva questa tradizione, perché è un lavoro che abbiamo imparato andando a bottega, come si suol dire, da un altro apicoltore qua in Maremma, e poi pian piano ci siamo messi in proprio e adesso cerchiamo di camminare con le nostre gambe. Bene, grazie Alessandra Fellin, Fior di Maremma. Bene, ora andiamo in Valseriana, nel comune di Songavazzo, in provincia di Bergamo, con Felice Zamboni. Buongiorno Felice. Buongiorno. Lei faceva il muratore e ha deciso di mettersi a coltivare l'orto, però per una ragione particolare, se ho ben capito, vero? Sì, per più di una ragione. Comunque, in particolare, la mia attività di muratore precedente non mi appagava, diciamo, perché i soldi si guadagnavano più abbondantemente che nel fare l'agricoltore. Però il fare case continuamente in un posto dove le case sorgono come i funghi e le seconde case sono ormai il 70% delle abitazioni, ho sentito un po' il bisogno di cambiare strada e di appunto tornare un po' alla terra e trovare un'alternativa a quello che era il continuo edificare. E cosa coltiva lei oggi? Allora, io coltivo ortaggi. Ortaggi perché mi danno la possibilità di fare una vendita diretta. La vendita diretta è soprattutto mirata a chi occupa le seconde case, appunto, di cui parlavo prima. Quindi lei arriva, cioè praticamente vende nei suoi campi, se ben capisco. Sì, vendo direttamente nell'orto in cui coltivo. La gente viene, apprezza, raccolgo praticamente al momento quello di cui hanno bisogno. Insalata freschissima, diciamo, non solo insalata, ma insalata in particolar modo, perché la foglia verde è tenera quando è raccolta al momento, non ha neanche il tempo di appassire. Ecco, siccome lei si chiama Felice di nome, voglio chiedere, ma è felice di questa scelta? Io sono felicissimo di questa scelta, anzi, è una scelta avvenuta all'incirca 7-8 anni fa e ne godo molto di più col passare del tempo, perché sono veramente convinto di aver fatto il giusto. E di fare oltre a me stesso del bene anche contribuire a migliorare quelle che sono le cose. Bene, io la ringrazio. Felice Zamboni, Orto Felice, Valseriana, comune di Songavazzo, provincia di Bergamo. Ma voglio fare la stessa domanda a Giovanni Ferraris, che è un ex psichiatra, se è felice di aver cambiato professione. Sì, Buongiorno. Buongiorno. Sono molto felice perché devo dire che in questo nostro lavoro ho trovato quella soddisfazione, quella passione, quella motivazione per andare avanti, che devo dire che con il lavoro precedente era andata forse via via a spegnersi. Vogliamo spiegare cosa fa oggi? Oggi con mio fratello e con mia sorella. Tutte e due laureate, anche gli altri due, se non erro. Anche gli altri due, sì, esatto. Siamo prima uno, poi l'altro, ritornati a quella che è la nostra terra, che come dice mio fratello ce l'abbiamo nel DNA, perché noi abbiamo un'azienda di famiglia a Santià che coltiva non solo riso ma da un anno a questa parte anche verdure. Quello che noi facciamo è quindi diviso in due rami, nel senso che coltiviamo l'orto per chi non lo può fare, e quindi attraverso il nostro sito leverduredelmioorto.it è possibile scegliere la dimensione dell'orto, è possibile scegliere le verdure, saremo quindi poi noi a coltivare l'orto e una volta alla settimana facciamo consegna a domicilio. Ma la novità del 2011 sarà il poter fare, sempre attraverso il sito leverduredelmioorto.it, non solo l'orto ma anche una piccola risaia, e quindi poter quindi scegliere la dimensione della propria risaia, il tipo di riso da coltivare nella piccola risaia, quindi come essere lavorato, come essere quindi essiccato, e anche questo poi, bene, una volta pronto, consegnato a domicilio. Bene, grazie a Giovanni Ferraris, abbiamo chiuso questo viaggio straordinario, devo dire, veramente molto ma molto intrigante. Bene, vorrei ricordare solo un evento della prossima settimana, l'8 di dicembre al castello di Grinzane Cavour verrà così assegnato il premio Truffle Awards allo chef Fulvio Pierangelini, che si esibirà anche su un piatto molto particolare di tartufo. Bene, quindi io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio in particolare Peter Bescapè in regia e in redazione Anita Panizza. Vi do appuntamento al Riposo del Guerriero domani alle 11.15 e ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 con la pillola del gastronauta. Buon weekend a tutti.